Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Lo zampone con le lenticchie! Oh, mi piace tanto il zampone! Alle 10:30 scarse, finita la cena, il maestro Canello, che aveva un altro impegno in un altro veglione, barò bassamente annunciando al microfono. Attenzione! Mancano 3 minuti a mezzanotte! Rimettete gli orologi, preparate lo spumante! Aspettate! Meno 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Mi rendo conto che non esiste categoria umana più degna di disprezzo in questi giorni, più emarginata, più messa ai margini, che i disfattisti del Capodanno. Ahimè, geneticamente, generazionalmente, coscientemente appartengo a questa categoria. Quindi oggi vi beccate la puntata del disfattista del Capodanno. Lo so, mi rendo conto, sto interrompendo il vostro sogno, sto inquinando in qualche maniera meschina, sicuramente vigliacca e crudele, quella che è la fantastica pausa in cui si arresta il mondo, non ci sono più problemi, di nulla più ci preoccupiamo perché è Capodanno. È Capodanno e si ferma tutto, perché questa artificiale, ipocrita scansione del nostro tempo in anni e capodanni, chiaramente ci dà possibilità di dimenticare per un po' quelle che sono le angustie del mondo. Non vedremo più le sfilate di ammiragli in televisione che fanno le conferenze stampa senza aver nulla da dire sul naufragio, sulla nave incendiata. Non ci interesserà più del sondaggio che sta facendo l'ISIS su Twitter di come giustiziare il pilota Giordano, impalato, schiacciato col trattore, bruciato vivo, decapitato. Ecco, queste cose apparteranno comunque a un relativo passato. Perché? Perché la vera nostra preoccupazione, la nostra angustia, la nostra attesa, la nostra orgasmatica attività sarà tutta puntata verso cosa fare per Capodanno. Questo è il vero problema. Cosa farete per Capodanno? Come vi state organizzando? A quale fascia degli entusiasti del Capodanno voi appartenete? A quelli che hanno già programmato tutto, che già da Ferragosto hanno prenotato i voli e magari se ne stanno ai Caraibi, felici, occupatissimi naturalmente a mandare via Facebook, via Twitter le loro foto al sole con il cocktail di frutta in mano, alla faccia di quelli che in questo momento stanno in città, stanno col maglione, o come io in questo momento poteste vedermi con il berretto di lana in testa, sì, perché prendevo in giro i freddolosi, oggi è freddino e quindi mi tengo il berretto di lana. Come festeggerete il Capodanno? È una festa questa? Sapete che dovete organizzarvi? Avete prenotato il veglione? Avete pronto il vestito? Voi, signore, che vi state coprendo i capelli con un fazzoletto e state facendo la frittura, poi andrete dal parrucchiere, vi farete belle, vi siete depilate le gambe? No, perché il gambaletto non serve più, la notte di Capodanno ci saranno spacchi, giarrettiere rosse, gli uomini saranno finalmente attizzati in un cocktail fra spumanti e Viagra vi salteranno addosso, quindi sarà la notte in cui probabilmente coronerete il vostro sogno. Quali sono le aspettative per il vostro Capodanno? Vi accontenterete della festa a casa d'amici? Sai che bello, ognuno porta qualcosa, quindi vi toccherà cucinare comunque anche per quella notte, anche lì starete a sgomellare, a spadellare. E voi uomini cosa fate? Cosa vi mettete? C'è un vestito per il Capodanno maschile? Vi siete messo l'abituccio comperato ai presaldi, quindi col vestitino nuovo che vi sta un po' goffo perché ancora un po' rigido, oppure mettete l'abito, avete messo un altro anno, vi fate belli, avete promesso alla donna o all'uomo del vostro cuore che passerete il Capodanno assieme, questo vi risulta difficile, quale intrallazzo, quale giro, cosa farete il Capodanno? O se come me fate parte dei disfattisti del Capodanno, cosa sognate? Sognate di starvene soli, nel posto dove state meglio, da soli, senza nessuno, con le finestre chiuse, sbarrate, con qualcosa di buono da bere, qualcosa di buono da mangiare, qualcosa di buono e di bello da fare per le mani. 800240024. Come risolvete la più difficile equazione dell'anno di come passare il Capodanno? Natale con i tuoi e Capodanno con chi vuoi? Bene, allora ragazzi, se siete pronte per il vostro super veglione di Capodanno, qualche piccolo consiglio per essere perfette anche durante la notte più magica dell'anno. Quattro stili di donne. Semplice ma elegante? Allora la soluzione adatta è un abito monocromatico, monospalla o bustier. Accessoriatelo bene con collane, chandelier e una bellissima clutch scintillante. Siete classiche? E allora sarà un classico rivisitato. Tirate fuori il vostro little black dress, il vostro tubino nero che innanzitutto vi snellisce e lui non passa mai di moda. Rimoderniamolo con un gioiello oppure con delle scarpe sberluccicanti o al massimo colorate. Siete sexy? Ma ecco già che arriva la prima ondata delle intemperie e delle offensive contro il disfattista del Capodanno. Nicoletti, lei è un disfattista su troppe cose. Ascoltarla viene la depressione, dice Laura. Ma Laura probabilmente si è immediatamente rasserenata sentendo che il tubino nero sfina. E sentite queste maestre di stile, queste improvvisate signore che danno consigli per il Capodanno, come vestirsi, dividono l'umanità in categorie e di felicità. Semplicemente danno dei consigli per come organizzarsi per la sera più bella dell'anno. Cosa c'è di bello nel Capodanno? Che triste, si stappa la bottiglietta e poi si guarda in televisione, perché il countdown classico è quello della televisione, quello con Conti, che però già l'ha registrato a novembre, ho visto. A novembre hanno già registrato tutti i veglioni televisivi del Capodanno. Sai che pathos, sai che tensione, quella felicità, quell'allegria simulata, perché se ne staranno già alle Seychelles tranquilli con i loro amici, con le loro amiche. Invece no, dobbiamo vederli lì che ballano, festeggiano, stappano il finto spumantino con le... Scusate, vedete, già mi prende il disfattista di Capodanno e viene colpito nelle sue corde vocali. Francesca, buongiorno. Buongiorno, sei fantastico, ti adoro. Lei è una disfattista di Capodanno? Io sono una disfattista del Capodanno, sì. Quindi come la vede il resto dell'umanità che già si appresta a festeggiare il Capodanno? Come una persona da internare come minimo per una settimana? Beh, loro considerano me una da internare, però me ne frego, assolutamente il Capodanno è proprio una di quelle cose che... Ma lei, scusi, sentito, no, perché è importante, Francesca, lei è disfattista del Capodanno in quanto sfigata, brutta, puzzolente, o perché proprio capisce che questo è un giorno che uno deve passare lontano da quella che è la consuetudine? Lontano da quella che è la consuetudine, ma non perché devo, perché non me ne può fregare di meno, cioè proprio non è una cosa che sento, è un giorno come un altro. Poi per carità può essere la scusa per cenare con degli amici, ma la cosa finisce lì, come una qualsiasi altra cena in un'altra sera, né più né meno. Ma cos'è che ci uccide? Cos'è che ci uccide? È il dovere di dover festeggiare qualcosa di epico, un passaggio epocale, come se improvvisamente fossimo dei Maya, degli Aztechi che stanno lì a tremare. Passerà l'anno, ma dove passa l'anno? Il tempo è lo stesso, il cosmo non cambia, l'universo continua con il suo palpitare nonostante che ci sia lo spumantino di Conti in televisione che ci dice 5, 4, 3, 2, 1 e tutti si baciano. Carità, non si può vedere, credo che sia veramente l'illusione che tutto cambi nel giro di pochi secondi quando si va da un anno all'altro, insomma, l'illusione del domani sarà meraviglioso oppure sarà bruttissimo. Non è forse anche una conferma necessaria per rinsaldare i rapporti, gli amici, bisogna fare gli auguri di Capodanno, se no non sono amici, gli amori non sono amori se non si sta insieme a Capodanno. Capodanno, le famiglie non sono famiglie, sono unite a Capodanno. Insomma, il Capodanno è il grande collante artificiale per tutto ciò che altrimenti navigherebbe sparso. Ma sì, anche io le vedo un po' tutte così queste feste, ma in generale cioè, molto false, molta apparenza e poca sostanza. Va bene, Francesca, siccome stanno tutte le persone stanno telefonando, sono disfattisti di Capodanno, vorrei che chiamasse qualcuno entusiasta di Capodanno che infondesse nelle nostre sclerotiche artere un po' di gioia per il Capodanno, se no sembriamo un grande gruppo di snob, dicono ma io il Capodanno, figuriamoci che schifo, che cosa plebea, e invece stanno da soli perché sono sfigatissimi. Questa è la paura. Roberto. Pronto? Lei è disfattista del Capodanno? Buongiorno, no, abbastanza, dopo anni e anni di a rincorrere feste stupide così mi sono stufato. Allora l'ultimo dell'anno prendo un bel libro, me lo leggo, mi metto i tappi nelle orecchie perché non voglio sentire i botti, Il primo dell'anno faccio un bel giro in bicicletta, che di solito sono sempre stato baciato dal sole. Quindi è quegli umarel che vanno il primo dell'anno in bicicletta, quando tutti tornano a casa dal veglione, strafatti, stracontenti, stratrombati, lo vanno in bicicletta e fanno vedere. Va bene, ognuno ha le sue predilezioni. Noi stiamo trovando... Luisa, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Lei cosa fa? Guardi, di solito io me ne sto a casa, anche più che di solito, sempre, e ho trovato un modo bellissimo. A me viene il sonno, dico, aspetto mezzanotte, no, ma che? Mi viene un sonno, vado a dormire. Ma è una tristezza disumana, No, io sono contenta. Ma no, è uno squallore mortale. Io dico così, disfattista, ma se sto da solo mi sparo, cioè troverò qualcuno, qualcosa che stia con me, essere umano o animale da cortile, ma sta andare a letto alle 8 di sera, ce la suicidate. No. Non ho detto alle 8, non riesco a aspettare mezzanotte. Ma da sola va a letto, tanto per cominciare. Io non abito da sola, il mio consorte, lui stappa la bottiglia, se ne stanno di solito, a me viene un sonno pazzesco, io alle 11:30 mi metto a dormire e faccio il trapasso. E lui con la bottiglia che fa da solo, scusi? E cosa so, io non lo so, perché io dormo. Dopo Io mi farei questa domanda, però da anni cosa fa suo marito da solo con una bottiglia mentre lei russa nel letto? Non russo, Nicoletti. Che ne sa che tutti russano, eh? Il russatore non sa mai del suo russare. Anche ragione, ma non mi risulta, perché quando dopo viene a dormire non mi ha mai detto che è russo. E vuole sapere una cosa. Perché lui farà altri rumori probabilmente, quindi compensa. Insomma, ma è vero, fai rumori suo marito? No. Cosa domando? Sento una cosa, sa cosa è bello? Che io sono una persona che sente i rumori, no? Sì. E invece tutti i petardi sono una cosa, lui mi dice un bombardamento. E quindi suo marito dormo. Ha libertà totale, quando lei dorme può fare qualunque cosa. Io dormo come un ghiro e il giorno dopo, sai cosa facciamo? Di solito andiamo in giornata a sciare, siamo felici, riposati, belli, strade libere, belli, beati. Così io passo l'ultimo dell'anno, però so che il primo vado fuori. Va bene, mi sta venendo un po' di tristezza, devo dire. Francesca? Francesca? Non c'è, è morta. Marcello? Eccoci. Sì. Buongiorno. A quale categoria appartengo? Ma non lo so, in realtà io potrei essere o doppio disfattista o doppio super contento, visto che anche il mio compleanno il 3. Mi è arrivato un tweet: Nicoletti disfattista, Tonnarelli, Pacchino e Spigola, Ferrari ghiacciato e torta di mele, e poi un buon film di Billy Wilder. Mamma mia, cioè io sto elencando l'apologia dello squallore. Lei cosa fa a Capodanno? Pronto? Dicevo che il Capodanno in realtà io potrei essere o doppio disfattista o doppio contento, visto che è anche il mio compleanno. Madonna, quindi... che sfiga, lei è nato il giorno di Capodanno? Esatto, il 31. A che ora è nato? Era verso mezzogiorno più o meno. Ah beh, quindi la sua madre si è rimessa un po' in sesto e a mezzanotte ha stappato. Ha stappato, sì. Ha stappato due volte. Il problema qual è nel mio caso? È che non mi è concesso di essere... In quel giorno, non dico triste, ma normale, no? Quindi c'è un giorno in cui voglio passarlo, appunto, sentivo prima l'altro radioascoltatore, magari leggendo un libro rilassato, no, perché ma scherzi, bisogna fare qualcosa perché è la fine dell'anno, ma come, il tuo compleanno non facciamo niente, e quindi... L'ideale sarebbe stare con persone che non sanno che è il suo compleanno, ridurrebbe del 50% l'ansia. Esatto, ma tipicamente succede così, ma anche con le persone che mi conoscono da tempo, non gliene faccio una colpa, cominciano a... Per me quello è un giorno corto, si inizia la mattina e quindi comincia. Però pensi la fortuna, risparmi anche il giorno del compleanno, i regali, dover ringraziare, fare qualcosa, la torta, certo, agli amici. Alla fine si toglie il pensiero in una botta sola, tutto sommato. In effetti sì. E poi facciamo sempre conto paro, perché il 31 è finito l'anno, preciso un anno di più, no? Quindi vabbè, quello tanto. Non ci sono calcoli complicati da fare. Più passeranno gli anni, più per lei diventerà gravoso questo giorno, finché vorrà dimenticarlo, andrà in un posto dove non si festeggia il Capodanno. Melog. Cronache meridiane. Allora, buonasera, siamo qui per spiegarvi il menù di Capodanno che ha creato il nostro chef Antonio Pedrone. Allora, il primo qual è? Antipasto. Cornetti di gamberetti. Allora, qui c'è ancora qualcosa che bolle in pentola. Sì. Allora, vediamo che cosa sta bollendo. Allora, questi di sopra cosa sono? Baccalà alla livornese. Baccalà alla livornese. Cosa contiene il baccalà alla livornese? Come viene fatto? Cacciopolo, pomodoro e chiapparini. Voi ridete, questo è il trash dell'alta cucina televisiva, che a sua volta è già il trash della cucina in sé. Nulla è più trash, nulla è più un'emulazione fallita di modelli alti dei grandi chef televisivi. E oggi, naturalmente, il Capodanno è legato anche da questa cosa del cibo, della raffinatezza, del food. Un'amica mia dice: ho un amico che lavora nel food, fa il commerciante per i grossisti dei mercati generali, però lavora nel food. Oggi il food probabilmente è il senso, è la chiave profonda che dà distinzione sociale tra un capodanno sfigato e un capodanno di alto lignaggio. Mi dice un ascoltatore, mi scrive sms, quella che è la sintesi più felice di quello che è un veglione di capodanno, dice: stronzi in giacca e cravatta e stronze che credono di averla placcata d'oro. Simonetta, buongiorno. Sì, buongiorno. Anche lei crede di averla placcata d'oro? No, io festeggio con una mia amica, siamo sole, abbiamo la fortuna di stare in una bella città come la nostra, Firenze. Sì, però è triste, due zitelle sole la notte di Capodanno. No, siamo purtroppo sole per altri motivi. Vabbè. E allora ci trovate compagnia, andiamo. Perché non esiste una condanna alla solitudine. No, infatti. E perché voi due donne sole? Due donne sole perché... Siete fidanzate? No. Non mi piace niente di male. No, non c'è nulla di male, però insomma al momento siamo sole, mettiamola così, e allora festeggiamo nella nostra città, andiamo a un concerto in Piazza Signoria, sì. Un bel concerto di musica classica, poi c'è gospel in un'altra piazza e poi verso mezzanotte... E al gospel magari trovate qualcuno, non lo so. Ecco, potrebbe essere. E poi torniamo a casa, perché ecco, festeggiamenti in piazza, bottiglie rotte, e grandi stappature di bottiglie, e ci fanno tristezza. Ma voi portate lo spumantino da casa? Si porta lo spumantino da fuori. Ma con la borsetta, quella che danno al supermercato, che tiene il freddo? No, per carità, quello no. Però insomma prendiamo un buono spumante qualche e dove lo mettete? Perché si scalda per strada, vabbè, che no, freddo. Si tiene in frigo a casa e festeggiamo a casa. Cioè, il non lo bevete facciamo... fuori? Sì. Okay. Insieme ad altri amici che ci aspettano invece. Vabbè, una notte ricca, via, non sarete sole. Sì, adesso. No, chiagni e fotti come al solito. Daniela, buongiorno. Buongiorno, sì. Buongiorno. Io sono proprio invece l'opposto delle statistiche che ho sentito. Oh, per fortuna. Io invece sono proprio una fautrice. E come si sta organizzando allora questa fantastica festa? Allora, adesso quest'anno, diciamo che però tutti gli anni mi sembra che gli statisti siano un po' troppo seri, prendono la cosa in maniera molto molto profonda. Forse noi festeggiatori, se posso dire. Guardi, noi disfattisti non sogniamo altro che con una festeggiatrice. Ci inviti, dici vieni a passare il Capodanno con me. Ecco, allora venite a passare il Capodanno a Padova, che si sa benissimo. Ma lo festeggio e lo festeggio insieme ad amici, ad altra gente, fuori. Ma amici che vuol dire? Amici che vuol dire? Amici, no, allora non vuol dire amici seri, posso dire anche conoscenti, ma non ha anche... Cioè tutti escono con gli amici, ma scusate, la notte Capodanno... fondamentale per chi è solo e trombare. Ma col marito, col marito. Incontra con sì, no, non da sola che cerco amici, ma no, potrebbe anche mica... essere che va bene uguale. No, c'ha tutti gli amici, va tutti amici, amiche, amici, amiche. Ma magari di si diventa amici anche con il festeggiamento. Ah, ecco, ma è una spera. Cosa per prendere un po' la vita un po' più alla leggera, trovare un giorno in cui... Mi è venuto in mente un aneddoto, glielo posso raccontare, è tristissimo. Sì, un mio Capodanno, ma che ci avevo avuto? Ci ho avuto 20 anni, ero andato a una festicciola a casa di una ragazza molto bene della mia città. E ebbi la fortuna di rimanere l'ultimo, se ne andarono tutti, rimasi ultimo io, e naturalmente tentai alla virtù della padrona di casa, che ebbi soltanto degli scarsi contentini. Solo siccome ero sfigato, mio fratello se n'era andato con la macchina, rimasi anche a piedi. Si svegliarono i genitori e mi mandarono via di casa, e mi ricordo che tornai a piedi, e furono parecchi chilometri, una bella giornata di sole, con le scarpettine strette, lucide, coi lacci della festa, e tornai a piedi da solo, sfigato e anche attizzato, e fu molto brutto, per quello forse c'ho questo trauma. Sì, allora è davvero un trauma dello scienziale. L'avevo rimosso fino adesso, finalmente l'ho tirato fuori. Esther, buongiorno. Buongiorno, sì. Guardi, a me queste feste danno un po' di gioia, un po' di vita, solo che a Capodanno specialmente mi capita di pensare a quelle persone che durante l'anno le sono capitate tante brutte cose, anche disgrazie, come succede a tutti noi. Scusi un attimo, mi aggiusto. E allora mi mette un po' di tristezza, perché ho quei momenti di riflessione. Quindi anche lei pensa a tutti i morti che ha avuto durante l'anno e viene tristezza? Tutti i morti no, ma ci sono tutti, malattie tutti gravi. Gli anni non sono belli per tutti in generale, e quando capitano di testa, specialmente se tante cose brutte le abbiamo appena passate, sì, ci danno tristezza. Mi stanno chiedendo i miei colleghi perché non tieni le mani sulla scrivania. Risposta c'è. Andrea, buongiorno. Buongiorno sì, a voi. Vediamo se ci ritira un po' su. Sì, no, nel senso che io sto sentendo una serie di baggianate, di tante ipocrisie. Beh, li faccio parlare apposta perché mi diverto. Proprio esagerate, guarda. Vediamo come passiamo il Capodanno. No, sa qual è la cosa? È organizzarlo. Le dico la verità, io disfattista del Capodanno. Ci fosse qualcuno che lo organizza per me, ma veramente figo, io non devo pensare a niente, ci andrei. Bella queste cose, infatti io proprio questo voglio dire. Spera anche questo lei. Assolutamente. Perché in sostanza organizzo da sempre un Capodanno a casa, con amici, ci divertiamo, però ancora non riesco a convincerli di fare una cosa, diciamo, normale come il resto del mondo. Cioè il mio problema è l'opposto. Noi siamo troppo autentici, siamo sempre là e vorrei fare una cosa diversa. Qual è il suo tipico Capodanno da entusiasta? Cioè, poi lei deve pulire, organizzare, cucinare e poi buttare via la roba. Che palle! Allora uno si fissa. Cioè, il vomito degli amici tocca a lei pulirlo poi dopo domani. Capisce? Quindi allora quest'anno abbiamo evitato. Problema evitato, si fitta una sala, si va insieme, si compra. Ognuno prepara una cosa. Ma la sala parrocchiale è una cosa figa veramente? No, una cosa figa, guarda, la sala sembra quasi alla Scarface quando lo vogliono sparare. E dove le affittano le sale? Io non ho idea. Affittano sale libere per fare il Capodanno? Sì, si fittano. E ma da mangiare come lo portate? Da mangiare lo portiamo semplicemente noi, ognuno prepara una cosa e la porta. Quindi tutto freddo, tutta robetta? No, si può riscaldare lì. Ma c'è anche il fornelletto nella sala? È un fornelletto autentico per il primo anno. Ma dove ci si siede? Ci sono delle divane, sedie, queste cose qua ci sono? Ci sono divanetti tipo anni 70, una cosa figa. Ma è un casino, cos'è questo posto? È bellissimo. Qual è la destinazione d'uso primaria di questa saletta che affidate voi? Una sera era un'ex pizzeria una volta, funzionante. Una pizzeria fallita che l'affittano per i Capodanni. Esatto. Quindi mettete tavolini da quattro, ognuno sui tavolini? Sì, tavolini tavolate, diciamo, anche perché siamo insomma una quarantina di persone, ecco. Con le luci al neon accese, con la cosa bella, col calendario ancora del 1997. Esatto. Vabbè, bello, divertitevi. Melania, buongiorno. Buongiorno. Lei? Scusi Nicolina, sto ridendo perché lei, come dice le cose, è un argomento, è proprio un universo dietro le sue parole, vabbò. Allora Melania, lei cosa farà per Capodanno? Io sono sola, finalmente. Ma perché brutta, sgradevole, perché? No, perché è così, perché finalmente è così. Ma finalmente, nessuno le dice finalmente, ma nemmeno... No, io le dico proprio finalmente perché è un Capodanno vero, finalmente è un Capodanno nero, vero. Di chi si è liberata con tanto dolore? Con tanto dolore, sì, della mia vita, cioè ne sto cominciando un'altra, almeno sto riuscendo. Cioè, cos'è, è diventata qualcosa. Buddista, cosa ha fatto? Ma non sono diventata buddista, figurati, io non riesco nemmeno a essere cattolica, figurati. Sì, ma qual è, cos'è cambiato nella sua vita per cui lei dice con questa finta soddisfazione sono sola e non ho nessuna disperazione. Qui ha mandato via il marito, il fidanzato, l'uomo, questo? Sono andati via tutti, chi per un modo e un altro, anche a livello naturale. E quanti ce n'aveva per le mani, scusi? Tutti. Prego? Quanti ne aveva per le mani di uomini? Una famiglia, no. Ah, sua famiglia? È rimasta sola. Sono rimasta sola, però ma una solitudine obbligata, non è una scelta sua però. Beh, Dio mio, nessuno sceglie che gli altri se ne vadano, insomma, no? Sono gli altri che scegliono di andarsene, però comunque... E perché invece di crogiolarsi in questa solitudine non cambia veramente? No, io sono in un posto meraviglioso, è la mia casa di campagna, sì, dove ho del verde, dei panorami... Gli animali. Animali no, non tanto, un cagnetto... Alberi, ci sono degli alberi? Beh sì, certo che ci sono gli alberi, sono in campagna. Dei rami robusti? Non lo so, sono robusti, qualche volta li taglio pure. Allora... La prendo attenta, perché vengono dei momenti di depressione, sono troppo solo in campagna. Non invita qualcuno? Io sono serenamente felice. Una squadra di rugby che magari non sa dove andare a Capodanno la invita e fa una bella cena, no? No, mi hanno invitato, ma io invece di fare una bella cena la faccio da sola una bella cena, mi prendo una bottiglia di champagne, mi compro una cosa buona che mi piace, che mangio sempre a Capodanno proprio. E poi basta. Quando è finito, dopo aver mangiato e ben bevuto? Che faccio quello che faccio tutti i giorni, soltanto che inizierò un altro ruolo, un anno che si chiama 2015, insomma, un numero diverso. Vabbè, bocca al lupo, Melania, non continua perché viene un po' di tristezza. Rita! Ciao Gianluca. Ci fosse una persona che mi racconta una botta di vita, almeno una speranza. Oddio, guarda, io passo il Capodanno sempre con l'amore mio, che poi coincide anche con mio marito. Sai che noia, e... scusa, è meglio quella no, che sta sola. Lo sai quanti anni che sono sposata? Sì, 43. Mamma mia, mi sono sposata a 16 anni. Ma che fate, ma cosa fate? Non so, giocate a mercante guarda, in fiera? No, no, no, ci andiamo in qualche bel posto a un veglione, sempre con un tavolino a due, oppure anche una cinetta romantica da qualche parte. Scusa, che c'è di romantico dopo 50 anni, scusa? C'è tantissimo, tantissimo, veramente tantissimo. E quindi? E quindi ci divertiamo, poi anche se facciamo una cinetta non a un veglione ma anche in qualche altro posto, ci vestiamo elegantissime, a me piace molto vestire con paillette, pizzo, mi piace moltissimo essere elegante e quindi è un'occasione. E suo marito come si veste? È in vestito scuro. Ah, e state solo da su lei, lei in paillette e pizzo, col vestito scuro, vi guardate in faccia e fate gli auguri, complimenti. Benissimo. Come passerò io questo Capodanno? Andrò in un luogo di malaffare, con donne perdute e uomini perduti, ubriachi, ubriacherò insieme a Chiappina, Fabrizio Intonti, alla faccia vostra. All'anno prossimo.